Patricia Rossette. Welcome to the Met, where today we're offering a showcase of great bel canto singing with a cast of top Rossini stars. La Donna del Lago, based on Sir Walter Scott's The Lady of the Lake, has some complicated plot turns. Essentially, it's about two tenors and one mezzo-soprano playing a pants role who are all in love with Elena, the Lady of the Lake, sung by the great Joyce DiDonato. The characters who woo her are none other than the King of Scotland in disguise, sung by the brilliant tenor Juan Diego Flores, the Highland Chief Rodrigo, sung with searing intensity by tenor John Osborne, and the warrior Malcolm, Elena's true love, dazzlingly sung by mezzo-soprano Daniela Barcellona. In this opera, the mezzo-soprano gets the mezzo-soprano in the end. Tough luck for the tenors. The opera was composed in 1819, but this is its premier run at the Met. It's conducted by one of today's leading young maestros, Michele Mariotti. He's ready to go to the pit now. Get ready for some vocal fireworks. Here is La Donna del Lago. Thank you. Thank you. Al nostro sguardo, al nostro sguardo. Thank you. prego, ne vai cento. Sole starei in bronzo. Di genio si appromento, io già ti provo in me. Di genio si appromento, io già ti provo in me. Oh, Thank you. Essere sposa e ad esser vato, o volgon fremente il cielo, e patria onore affidano al sovrano. Ma ti sol resta coronar tanta impresa, e la tua mano nel bel sentier di gloria. L'alto campione affretti alla vittoria. Esisto e non moro. Padri, di quando farvi parlor di guerra, allor che l'armi corre ogni terra. Entri lo scudo in braccia, la debil fanciullezza, la tremula canizie, e tutto al guardo stragi presenta, e belli ci furor. Ridino, sì, e voi destando amori. Oh, mie fedel! Sul labbro tuo, stranieri, son questi agenti, e fia l'estrema volta ch'io date lota. Ad obbedirmi apprenda chi audace mi disprezza, non ti a soffrir non è.

accende. Dolce fiamma nel mio seno, e suoi lumi un sol valeno, fa quest'anima mea, fa quest'anima mea. Oh! mi è dato prence e stringerti al seno. Batti si corrato istante, bramosa l'alma mia, più dell'usato le ali al tempo agitò. Di egual desio fu anelante il mio cor. Venga e ne offenda or Giacomo se il tuo. Rodrigo in campo, seco e vittoria. Quei venti più felici brillano già da così lieti aspici. Se il saggio tuo consiglio il mio braccio avvalora, non dubitar, salva la patria allora. Il presagio felice afferi il ciel. Ma teco, a che nome la figlia? Io la precedo di pochi passi. Ignora forse il mio impaziente ardor. Eccola. Amici, voi l'amata mia diva, accogliete con plausi e lieti e viva. Suoi più teneri, gli affetti suoi.

mia pace ti metto a taci, comprendo già ti vibra mi accendo crudirai si sento che sfriazzo mi tento e tutti comprendo noi d'agio si accende amici, guerrieri, su, marciù, marciù, marciù.